guarda, per quanto riguarda questa questione dei circoli strisci, giustamente credo vada possa essere esaminata confrontandola con altri settori disciplinari, ma insomma per quanto riguarda strettamente la questione dei circoli strisci, di quali peraltro sappiamo visto, perché tutto sommato sappiamo che esistevano, ma ci sono, non ci sono degli studi. Io ho questa impressione che a parte il caso di Palermo, dove il circolo giuridico palermitano effettivamente svolge anche per la presenza poi di alcuni personaggi, quel tale Cusumano, che è uno dei primi che introduce in Italia la dottrina che giuridica è palermitano e lavora al circolo giuridico di Palermo. E poi non conosco, non mi sentirei dire nulla per quanto riguarda il Stato d'Italia, mi sento esbronato per quanto riguarda il circolo giuridico napoletano, ecco per esempio, non c'è dubbio che intorno da questo circolo esce la più diffusa rivista giuridica italiana della fine dell'Ottocento e probabilmente la più bella. Però oltre che come strumento appunto di promozione editoriale a questo punto, che cosa esattamente facevano ai fini della formazione? Qui io non lo dimensionerei di parecchio, perché questi circoli giuridici, questo di Napoli sicuramente, anche quello di Palermo, altri, hanno poi un ruolo quando riescono a fare una rivista, a fare una lana, a fare una attività editoriale, quindi cioè a voi diciamo come promotori di un'iniziativa editoriale, ma a questo punto sono costituiti già da studiosi affermati, i quali magari si incontrano e ascoltano una bella lettura. Il momento invece di formazione, quello non basta per i circoli giuridici, ma basta per le scuole private. Dei quali scuole private, tanto è vero che per esempio per quel poco che sappiamo di questi insegnamenti privati, perché per esempio un esame abbastanza attento dei corsi, io sto cercando intanto per esempio di fare un censimento dei possibili test superti dei corsi, ho trovato quello di Roberto Savarese, credo che sia un ritrovamento per noi giuristi notevole per la semplice ragione che la scuola di Savarese è certamente il prototipo di molte altre ed è anche il luogo per il quale sono passati alcuni dei personaggi che ha fatto la cura neo-guelfa napoletana, secondo l'Ottocento viene dallo schiere o passa per le mani di Roberto Savarese, da cenni a quanti altri si voglia. Ecco, e lì non è un caso però che viene indicata sempre in maniera abbastanza critica i tentativi didattici nelle scuole private, voglio dire, le testimonianze che ho trovato indicano sempre come esempi da non seguire, perché tutto sommato inefficaci e persino ridicoli, quei tentativi che fanno nei circoli giuridici di organizzare lato delle attività culturali delle forme delle specie di scuole professionali, in parole povere per esempio facendo delle esercitazioni sul modello del processo. Il problema esiste, il problema di colmare la frattura tra teoria e pratica, esiste questo problema, come lo risolviamo? Riuniamo nel circolo giuridico e assegniamo a te la parte dell'attore, quell'altra quella del convenuto e poi il presidente del circolo fa gli studi. Ecco, quelli che fanno per davvero gli avvocati e che tengono le scuole private dicono queste robe che si fanno nel circolo giuridico sono delle buffonate, sono delle pantomime teatrali, non servono affatto ad imparare a fare l'avvocato. Quindi dal punto di vista formativo io credo che vada ridimensionando il ruolo dei circoli giuridici, che invece ne hanno uno grandissimo dal punto di vista editoriale. Quando riescono a fare delle riviste o delle collane, quei circoli fanno questo, hanno sicuramente una grandissima importanza. Ne hanno poi naturalmente un'altra, ma non voglio continuare, sennò si diventa troppo lungo questo intervento. Ne hanno invece un'altra molto importante come luoghi di di aggregazione delle borghesie cittadine, questo è un altro punto che è molto importante. Il circolo nelle varie città dove sorge diventa il luogo dove di aggregazione della borghesia cittadina rilevante, molto rilevante. Credo che Aldo abbia ragione sulla distinzione tra il ruolo culturale e più che di organizzazione della borghesia cittadina, proprio di veri e propri gruppi di potere, cioè è un ceto che si scambia, si organizza attraverso una struttura di potere non irrilevante come è l'avvocatura, la magistratura, eccetera. Cambia un po', credo, questa situazione. L'unico caso che io conosco molto approssimativamente in Milano negli anni 20, quando ci sono strutture di più facoltà giuridiche in zone vicine, quindi a Milano, Statale, Cattolica, Pavia, eccetera, e allora il circolo giuridico tende a riassumere la caratteristica di formazioni professionali. Siamo negli anni 20-30 e comincia a organizzare preparazione ai concorsi in modo molto, molto specifico, ma è un passaggio successivo e credo che non valga fino agli anni 20 e forse Milano è anche un'eccezione. Molte grazie. Sono altri interventi di PS su, io come Tatiani che muore di certe biblioteche universitarie il flusso di acquisti di libri stranieri e di quali libri stranieri, di che provenienza culturale, tedesca o francese, via di seguito. È solo questa domanda. Per esempio a Napoli era un bibliotecario d'arte, aveva collegamenti forti con l'arte, col mondo tedesco, ma poi la Firenze. Ma dunque i dati che davano gli scienziati che facevano questi interventi di storia della scienza erano abbastanza scoraggianti sui fondi disponibili per l'acquisto di libri. Davano dati di dimensioni di biblioteche e di istituto, anche di istituti grandi, importanti, spaventosi, 15 libri l'anno, 20 libri l'anno. Quindi insomma, certo si può, ma bisogna aver chiaro, soprattutto per certi settori, la limitatezza, la ristrettezza estrema della disponibilità. Poi chiaro, empiricamente lo sappiamo tutti, basta andare in una biblioteca universitaria di una grossa università, si vede se uno ha la disponibilità di un catalogo d'ingresso, i flussi si ricostruiscono. Però per le scienze, diciamo, naturali, scientifiche, filologiche, le cose diverse. È diverso, chiaramente. E comunque tutti sottolineavano, ad esempio anche la relazione sulla chimica sottolineava come da un'iniziale fortissima dipendenza dalla tradizione francese, Cannizzaro fra l'altro è stato esule a Parigi perché è condannato a morte nel 48, eccetera. A un certo punto si cambia radicalmente, sono gli stessi a cambiare, c'è lo stesso Cannizzaro, i suoi allievi poi li manda tutti, in Svizzera, Austria e Germania. Quindi c'è una... Io ho l'impressione anche prima, questa è una cosa che bisognerebbe studiare davvero, davvero, perché subito lo Stato unitario mette a disposizione dei laureati le borse per l'estero. Noi non sappiamo sistematicamente chi è andato dove, cioè un elenco dei nomi. Completo? No, incompleto. Tutti in Germania, chiaro, ma questo intuitivo. Sì. Intuitivamente era ovvio, cioè non è il 70. Hanno un paio di casi dove vanno a Parigi, però perché non sapevano tutti. Non è il 70, io ho l'impressione che questo mito del 70, della scoperta della Germania del 70, cioè, lo sanno benissimo, da prima dell'unificazione tedesca, che è lì il punto di riferimento culturale. Dopo si accende. È un tema che abbiamo Ma credo che ci sarà tempo poi per discutere e affrontare, quindi soltanto alcune questioni adesso. Intanto, quali libri arrivano, eccetera, eccetera. E bisogna vedere settore per settore, probabilmente. Cioè, le facoltà, le università certamente hanno disponibilità scarse, e quindi l'afflusso per quella via è deludente se si va a controllare. Può darsi però che arrivassero altre, ci fossero altre vie, cioè non è detto che la cultura di certi personaggi, di certi studiosi e così via si formasse esclusivamente soltanto sulle biblioteche universitarie. Io porto un esempio del tutto lontano dalle cose che abbiamo detto, no? Però in alcuni casi in cui si sono fatti dei sondaggi su biblioteche, libri e raccolte di riviste di grandi ospedali, soprattutto degli ospedali psichiatrici che nella seconda metà dell'Ottocento vanno acquistando un ruolo importante in alcune aree italiane, dimostrano la presenza di depositi librari e di riviste di straordinaria importanza. Raccolte, non so, per esempio adesso voi conoscete anche per motivi letterari l'ospedale di Maggiano, quello di Mario Tobino, no? Si sta tentando di riordinare e vedere che cosa c'è, eccetera. È stato un grandissimo e importantissimo ospedale psichiatrico dopo l'unità e di area territoriale, nel senso che vi confluivano malati, no? da un'area molto vasta, quindi può servire anche come strumento di indagine sociale, sulle malattie sociali e così via. Erano informati, leggevano, avevano riviste, erano al corrente delle cose. Poi magari un tipo di informazione e di cultura che ci si formava in certi settori poteva essere utilizzata anche a livello universitario, a livello di insegnamento universitario, quando per i rapporti o quando queste persone partecipavano anche all'attività nel settore universitario. Quindi bisogna stare un po' attenti su questo campo. Faccio un altro esempio. Domando a Blanco se ne sa qualcosa. Pensiamo a École des Mines, no? Anche per polemizzare con Piero sulla questione della Germania, insomma, no? L'École des Mines ha svolto un ruolo importante già nella prima metà dell'Ottocento, no? Molti anni addietro mi divertii molto a vedere una specie di scontro fra campagnoli toscani, per usare il linguaggio, no? Questi grandi personaggi, Capponi, Lambruschini, Ricasoli, così via, tutti come dire molto preoccupati per il fatto che il giovane Ubaldino Peruzzi era stato spedito dallo zio granduchista e austriacante a Parigi all'École des Mines. Il contesto: austriacante, granduchista austriacante, industrialista, che prende il giovane e dice: tu, ma che illetterato, devi andare a vedere come sono fatte le miniere, come si lavora in miniera, e ci vai a Parigi dove c'è l'École des Mines. Quindi cioè, il contesto europeo è più complesso e non è separato per nazioni, insomma, voglio dire, anche questo va un po' tenuto presente. Se tu guardi la biblioteca dell'Istituto Tecnico Grandutista di Firenze, c'hai tutta la collezione delle cose, delle pubblicazioni delle cose, completa. Questo è appunto un lato come quello degli ospedali psichiatrici, così questi tipi di istituti hanno biblioteche e ricevono e raccolgono materiali e così via, quindi sono informati. Non è l'università che è in grado di fornire questo tipo di bibliografia, o necessariamente non è di lì che devono passare le cose, no? Allora a questo punto il discorso diventa più complicato, cioè è il rapporto fra, ma questo credo che avremo occasione di farlo, fra i settori scientifici, l'emergere dei settori di impegno, di riflessione e di ricerca scientifica, il costituirsi delle discipline, quindi i bisogni che la società e le esigenze che la società fa emergere e la loro istituzionalizzazione a livello universitario, che può essere più tarda, può essere diversa e così via. Questo riguarda la chimica, di cui prima si è parlato, ma forse ne parleremo e mi riservo di dire altre cose dopo, riguarda forse la fisica e così via. Cioè, se passiamo al discorso sui settori disciplinari, no? Che possono essere e possono anche non essere l'espressione a livello di istituzionalizzazione universitaria di grandi settori di ricerca o di grandi direzioni di scientifiche, no, non è detto che ci sia. Occorre prima vedere nella società e nelle sue esigenze che cosa avviene maturando. Perché avete parlato di fisica, matematica e chimica e non di, ecco, cioè come si fa la selezione delle discipline e dei settori scientifici dei quali ci vale la pena interessarsi e che segnano le grandi linee e i grandi sviluppi nel corso dell'Ottocento? Trovo che il momento della malattia del Bacco da Seta che investe a metà Ottocento una attività economica fra le più importanti di un paese come l'Italia, che a livello anche di storia economica italiana e storia dello sviluppo italiano non è sufficientemente valutata, invece è un grande settore questo della seta, tutto l'Ottocento e ancora fino a poco tempo fa, insomma, l'esportazione della seta, che regge in certi settori, no? Ecco, c'è questa cosa drammatica, no, della malattia del Bacco da Seta, che viene affrontata in vari modi e stimola ovviamente la ricerca scientifica in una serie di settori, la biologia e via di questo passo, la chimica, l'uso della chimica per disinfettare e così via. E insomma prendono Pasteur, che poi dà un contributo fondamentale in una certa direzione. Mi raccontavano l'altro giorno che un premio viene dato in area asburgica o vicino all'area asburgica nel Veneto a una ricerca che viene commissionata a Pasteur attraverso un accordo fra l'ambiente di Massimiliano e quello di Napoleone III, insomma, no? Passa di lì e ne vengono fuori dei risultati scientifici che non, diciamo così, che non sono ancora tipi di ricerche che vengono stimolate da bisogni, da esigenze della società, che vengono portate avanti con gli strumenti e i mezzi che si possono avere a disposizione, che il potere politico può mettere a disposizione, prima ancora che poi di lì nascano e vengano istituzionalizzate discipline, insegnamenti e via di questo passo. Questo viene dopo. Molte grazie. Ci sono ancora interventi su queste... No, sono le borse di studio che venivano conferite, grazie, dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che iniziano nel 68, e che sono quindi registrate nei verbali del Consiglio Superiore, non però sempre, alcune volte è scritto non le abbiamo registrate, quindi non si trovano. Ne assegnavano 5, 6 l'anno, dipende, a volte magari non assegnavano la borsa perché non c'era nessuno in grado di... Cusumano per esempio ne ha vinte 3, se non sbaglio, Erano per tutte le discipline scientifiche e letterarie, però per le discipline letterarie tendevano a lasciare i vincitori in Italia per spendere, semplicemente per spendere meno soldi. Invece per quelle scientifiche in massa andavano tutti in Germania, assolutamente, tranne un paio di casi in cui erano a Parigi, in un caso specificato però perché non sa il francese, cioè perché non sa il tedesco, altrimenti lo manderemmo in Germania. E in un altro caso perché invece andava alla scuola psichiatrica a Parigi. Sono dati che partono dal 68, arrivano grosso modo fino al 79, ma sono comunque parziali perché alcuni non sono registrati. Quelli registrati sono tutti Berlino, Graz, Lipsia, Vienna, dal primo all'ultimo, quindi prima del, sicuramente prima del 70 comunque. Cioè adesso io non li ho segnati tutti, appunto quelli sono in tabella, però è proprio senza, anche appunto per le, ecco, per le discipline giuridiche sono tutti in Germania, indubbiamente. Posso anche preguntare, per esempio la Toscana nell'ambiente di Del Rosso forte ce ne sono due o tre che vanno in Germania, con Ticino per esempio ci va con un granducale, che in altri paesi italiani poi invece non ci fossero, come in Toscana, queste borse di studio è più ragionevole. Nel Lombardo-Veneto avevano un rapporto in qualche modo più diretto. Napoli non era, per ragioni politiche, non mandava nessuno da nessuna parte, e quindi in buona sostanza voglio dire che però l'orientamento esistesse già prima dell'unificazione, mostrato se non altro dal caso Toscano e qualche piemontese, ecco, per il settore del 7 e volevo dire, no, ho la voce perché si sente. Sì. Ecco, vorrei forse introdurre un concetto che è quello di comunità scientifica internazionale. Cioè, in realtà, io ho avuto l'impressione, per quel poco che ho studiato io, che almeno dalla seconda metà del Settecento, cioè c'era anche prima, però dalla seconda metà del Settecento, cioè chiaro, con anche l'intervento dello Stato nella riorganizzazione delle università, c'è proprio una istituzionalizzazione di questi rapporti tra scienziati in tutte le discipline, che prima venivano attraverso i viaggi di studio, il viaggio dopo le lauree, i contatti epistolari, cioè cose che sappiamo tutti benissimo. L'Università di Pavia, cioè il governo asburgico, dalla riforma in poi manda i suoi studenti migliori all'estero e li manda nei luoghi dove sa che una certa disciplina è studiata meglio. Cioè, per esempio, i medici vengono mandati ad Edimburgo nella seconda metà del Settecento, perché la scuola scozzese, la scuola inglese di medicina, è una scuola all'avanguardia in quel momento. Non per niente poi ci sarà la famosa dottrina di Brown, la diffusione di quel tipo lì di medicina, che avrà anche un certo significato nell'epoca francese, giacobina francese. Così come poi, io parlo sempre di Pavia e poi posso parlare un attimo anche del Piemonte, quando c'è tutto sommato già negli anni 20 dell'Ottocento la decadenza della chimica francese, immediatamente si capisce che i giovani che si vogliono dedicare alla chimica devono andare in Germania. Ascanio Sobrero, che fu professore di chimica all'Università di Torino, prima dell'unità e anche dopo, va immediatamente da Liebig, cioè non si pone neanche il problema. Cioè, mi sembra che esista, cioè bisogna parlare proprio di un discorso scientifico internazionale al di là delle divisioni politiche e del fatto che gli scienziati sanno benissimo dove si deve andare e cercano di andarci. È chiaro che ci saranno dei periodi in cui ci andranno di più, di meno, ci saranno degli impedimenti certamente politici e economici, però gli italiani sanno dove andare e sanno che cosa devono leggere. Ecco, io un'altra impressione che ho avuto è che certamente spesso fanno delle scelte sbagliate, teoriche, si vede benissimo nel caso della fisica e anche della chimica. Per esempio, parlo sempre di Pavia, a Pavia c'è il caso di Brugnatelli, che è una persona informatissima, è uno di coloro, di quelli che a fine Settecento introducono non dico ex novo, ma quasi il giornale periodico scientifico in Italia. Eppure Brugnatelli non capisce Lavoisier, non lo capisce e inventa una sua nuova nomenclatura chimica che viene stroncata. Questo non significa che non conosca Lavoisier, cioè ci sono tutta una serie di problematiche, anche se vogliamo di carattere anche religioso, culturale, così, che fanno sì che certe cose vengano rifiutate, ma non è che non sono conosciute. Lei ha un vantaggio, che sta a Pavia e studia Pavia. Pavia è l'università di Maria Teresa, degli Asburgo, ecco, sono quelle cose che mi fanno sempre tenerezza. Insomma. Dico, l'Italia non ha avuto... Non è proprio Italia, capito? Come capito? Come dire, mi parlano di Padova, certi aspetti, dico, ma il vantaggio di essere stato il regime asburgico per un lungo tratto di tempo, dico, si avverte, dico, anche nella storia della storiografia, per esempio, no? E nella istituzionalizzazione degli insegnamenti della storia, come noi sappiamo. Queste cose, quindi... Non è detto che debbano essere estese e generalizzate, questo vale soprattutto lì, per quello mi interessava poi il confronto semmai con il Piemonte. La seconda questione, ecco, anche lì, prima di rimanere fermi in ambito pavese, ora non lo so, questa questione della fisica e la matematizzazione della fisica, tra l'altro io non so, però... Ecco, certo, a Pavia c'è uno che ha inventato una sua nomenclatura diversa e non ha accettato l'impostazione di Lavoisier. Ce n'erano in tutta Europa cose di questo genere, probabilmente, però c'erano in Italia altri che invece capivano subito, avevano capito Lavoisier. Ecco, allora, anche lì non bisogna rimanere troppo legati all'esperienza di un settore e di un ambiente determinato. Ora io non so valutare dal punto di vista della storia della chimica che cosa è successo in Toscana e sull'onda prima di Fabroni e poi di Savi e così via. No, ma c'era anche diversi tipi di sensibilità, chi capiva, chi non capiva. E poi insomma, per noi oggi è facile, quando ha vinto una soluzione, diciamo, bisognava capirlo subito. Dopo è comodo nascere dopo, no? Potrebbe essere fatta anche sulla storia di quello che non è stato accettato dalla scienza. No, certo, vorrei ricordare appunto che è una prerogativa nostra è di non voler fare storia della scienza, no? Questo è molto importante, perché altrimenti effettivamente entriamo in un'altra ottica, dobbiamo usare altre sensibilità e altre metodologie. Noi non vogliamo fare storia della scienza, vogliamo servirci se è necessario di storia della scienza, perché quando serve è logico che lì ci sono delle informazioni, dei punti di vista, però noi vogliamo fare altro. E vogliamo cioè cercare molto più semplicemente, in maniera molto più, insomma, è più facile forse anche, vogliamo cercare di cogliere dei percorsi, insomma, più o meno, percorsi più diffusi, quelli insomma che si affermano, quelli che diventano poi modello. E anche se lo diventano in maniera pretestuosa delle volte, cioè a prescindere dalla effettiva poi bontà, cioè si creano anche le mode, si creano i miti, no? Di questo, di quell'altro sistema, di questo, di quell'altra istituzione che bisogna frequentare perché altrimenti eccetera. Ecco, e tutto questo però ha lo scopo di arrivare a determinare, se nei limiti del possibile, i tratti complessivi di un... Se c'è in Italia, come sicuramente c'è in altri paesi, sicuramente c'è in Germania, di un sistema relativo alla formazione superiore, da una parte, relativo anche all'organizzazione della ricerca scientifica, dall'altra, nell'ipotesi, credo, che debba essere accolta in partenza di una tendenziale dominanza, diciamo così, del ruolo statale in questo sistema qui, pur salvando, naturalmente, anzi con grandissima attenzione, per tutte quelle invece pertinenze, non posso chiamarle, insomma, invece di tipo privatistico, di cui parlava prima Aldo, però insomma questo è quello che noi vogliamo fare, no? Tutto il resto ci serve essenzialmente, a me pare così almeno, in maniera un po' strumentale rispetto a questo obiettivo che abbiamo, perché già mi sembra impegnativo quell'obiettivo lì. Ecco. Quindi anche da questo punto di vista il discorso dei modelli, il modello francese, il modello tedesco, abbiamo imparato dopo i primi anni appunto a tralasciarla questa etichettatura così diretta e anche un po' rozza, e quindi penso che dobbiamo continuare a far così, che non toglie che, nell'ottica che io dicevo, si debbano e si possano individuare delle tendenze più o meno dominanti, insomma, ecco, in una direzione piuttosto che nell'altra, quindi in questo senso, cioè senza attribuire soverchia importanza a queste cose, però se si registra nell'opinione pubblica, a livello di atteggiamenti di ufficiali, di ministeri o di consigli superiori o di cose così, di scuole, così, se si registrano spostamenti, è importante rilevarli, no? Altro naturalmente è un'osservazione che faceva Mirri, cioè, certo, quando si parla di Germania, poi l'Austria, insomma, cioè, cos'è Germania o non è Germania? Ecco, bisogna stare attenti a queste cose qui, è ovvio, anche se al mio, per quel che capisco io, per quel che so io, dei settori soprattutto relativi alle scienze sociali, perché è questo finora è quello di cui ci siamo occupati di più, insomma, scienze naturali, io poi. Se, per quel che so io, i due sistemi sono molto simili e sono strutturati in maniera con forti dosi di omologia, insomma, fra loro. E anche il dibattito che si sviluppa in Germania sulle riforme, scienze sociali, eccetera, eccetera, della seconda metà dell'Ottocento, in Germania intendo dire nel Reich, è un dibattito che passa e che ha molta attenzione e viceversa anche per l'Alto Impero, insomma. Quindi, ecco, non è la stessa, invece non è così tra Germania e Francia, dove invece c'è una contraddizione che tra l'altro appunto è giustamente quella che c'è tra il sistema universitario francese, insomma adesso l'utile sistema francese è debolissimo per tutto l'Ottocento, tranne naturalmente invece il sistema delle grandes écoles. Certo che le grandes écoles fanno richiamo e fanno agio, per quel però lì è un discorso che più che essere, cioè è un discorso che è più mirato alla formazione di pubblico funzionario, in un certo senso, e in cui la dimensione ricerca scientifica da una parte e formazione superiore indifferenziata viene lasciata un po' da parte, cioè il problema della Bildung, cioè della formazione del gebildete cittadino, Staatsbürger, cioè del cittadino istruito, non passa per la grande école, perché la grande école è io adesso voglio studiarlo, intendiamoci, nell'Ottocento ci sono anche degli studi, cominciano a esserci, ma insomma la grande école mi pare che sia uno strumento estremamente selettivo di formazione di corpi, cioè di classi dirigenti differenziate in modo molto professionale, meritocratico e così via. Diverso è un po' le cose normali, che infatti poi svolge un altro ruolo. Quindi questo. Mentre invece per quel che riguarda, però, per quel che so io, la storia, per esempio, è stato tirato fuori naturalmente l'esempio di Libich, è chiaro che lì il discorso è molto grosso, per quel che so io nell'ambito della storia di quelle robe lì, proprio il laboratorio di Liebig a Gießen è quello che viene indicato come il turn point tra, a livello di moda, insomma, di attenzione mondiale per il problema dell'organizzazione della ricerca, il laboratorio di Gießen è quello che segna il passaggio dall'attenzione privilegiata per la Francia, che aveva con le grandes écoles guadagnato moltissimo terreno, e la Germania, che con questa cosa qui, insomma, recupera tutto il suo terreno, anzi, perché poi la Germania prima non è che, insomma, comunque, perché vengono fondate l'Università di Berlino, ma è negli anni 30 che l'Università di Berlino produce i suoi effetti veri, e è negli anni 30, se non mi sbaglio, che anche la Facoltà di Diritto funziona, insomma, ecco, quindi in questo senso qui c'è quello che so io era un po' in questo senso qui. Però è tutto, secondo me, molto, hai capito, io cioè credo anch'io che non si debba insistere troppo sull'etichettatura. Certo. No, no, è tutto da vedere, Però è giusto, giusto. Se la utilizzi per l'indice non è quella questione, non è come quando i nostri professori universitari vanno a Torino e dicono lì si dà una formazione a dire cittadino, lì si lavora in un certo modo. È un'altra cosa, eh. Non è tutta la stessa cosa, però non è neanche l'école normale, la grande école, no, ma lì è passato la moda, come dici te, no? Che è una cosa seria, è passato la chiacchola. C'era la Marisa, il corso, che se l'ho capito bene, ora di qualcosa. Infatti, un'informazione da tenere presente, Giacomelli sta studiando a Bologna da anni ormai la storia della psichiatria tra l'Otto e il Novecento, ha organizzato una splendida biblioteca e sta studiando gli aspetti universitari anche della disciplina. Non credo da Ferruccio Giacomelli, curato presso Boringhieri, parecchi volumi, La scienza infelice, eccetera, già da tempo, non credo, perché ha anche un'attività professionale di che possa partecipare, però si possono tenere contatti con lui perché ha un'informazione molto vasta su questo punto. E una delle cose che era venuta una volta discutendo con lui, e mi pare che sia un tema che dovremmo un po' tenere presente, è il momento in cui alcune discipline diventano autonome e il loro collocarsi, cioè che sono discipline che non necessariamente si collocano in una facoltà o in un'altra. L'opzione, o la presenza in varie facoltà, o la richiesta che sia in una facoltà invece che un'altra, il caso tipico di cui si discuteva con lui per un problema di lavoro molto particolare, era medicina legale, antropologia, psichiatria, che si presenta come una disciplina mista tra medicina, giurisprudenza e in qualche caso filosofia. Oppure il sorgere di vere e proprie tentativo o ipotesi di far sorgere facoltà in imitazione di quella francese di Bordeaux di scienze sociali a fine Ottocento anche in Italia. Altro tema probabilmente da tenere d'occhio sono i corsi liberi. Uno degli elementi importanti dell'università italiana sono i liberi docenti che hanno corsi liberi non incardinati nel sistema universitario, ma presso i quali ci sono alcuni percorsi a parte, che anche questi non sono sempre destinati necessariamente a un tipo di facoltà, possono avere caratteristiche. E alcuni casi anomali, è già stato studiato e quindi possiamo, tipo il laboratorio di Cognetti De Marzis a Torino, cioè luoghi di incroci, che hanno però anche dei riflessi universitari. Terrei d'occhio la cosa a cui accennavo, Moretti, i congressi, anche se probabilmente tra disciplina e disciplina gli effetti sono molto diversi. Cioè ci sono congressi in cui vanno alcune persone non perché sono le più rilevanti, ma forse le più potenti o le più pesanti in certi settori, ci sono altri congressi che invece sanciscono il valore internazionale di persone che ne hanno relativamente poco in Italia, dipende dal tipo di materia e così via, però non è una cattiva idea tenere d'occhio i congressi scientifici internazionali, dico dagli storici ai giuridici a quelli. C'è appunto una documentazione sotto l'inizio dei congressi di università nel fondo del Ministero della Pubblica Istruzione, sono una ventina di pubbliche, sia sui congressi, sia su un altro aspetto che per i rapporti internazionali con la parte istruzione internazionale. Eccolo. E poi